哒哒哒哒，汪汪汪，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，哒汪汪汪。 statevo zitta, shh, statevo zitta, per carità.Se non se ne vanno, non ci potremmo muovere. Zitta, statava zitta. Non è niente, mo passa. Non è niente. Shhh. Non sparate. Ci sono i bambini, mi arrendo. Mi arrendo. Per carità, state fermi, ci sono le bambine, mi arrendo. Ma non fate del male alle bambine. E a mia moglie. Così il boss, la primula rossa della camorra, il capo indiscusso del clan più feroce dell'Italia meridionale, ha accolto gli uomini della DIA. Li ha aspettati con le sue due bambine in braccio. Quando ha capito che per lui non c'era più scampo, si è consegnato così al capo della DIA di Napoli, che da circa 7 mesi lo stava braccando, inseguendolo come un cacciatore fa con la lepre. Il boss si è arreso quando ha sentito sbriciolarsi il muro che divideva il suo rifugio dal resto della casa.È venuto fuori con le figlie in braccio per avvertire i poliziotti che lì c'erano le bambine e che quindi lui non avrebbe reagito. Avete vinto, ma io non mi pento. Non ho niente di cui pentirmi. Avete vinto, ma io non parlo. 13 ore per stanarlo, 13 ore di ricerche, 13 ore. Alle 23 è scattato il blitz con 40 uomini della DIA. 40 uomini che quando sono entrati nella villa del boss non hanno trovato nessuno.Ragazzi, qui non si va via senza boss. Scatta la caccia, si tastano i muri, si cerca dappertutto, lacrimogeni nelle tubature. 13 ore di ricerche, 13 ore. Poi, alle 12:15, viene scovato. Gli agenti devono abbattere un finto muro, una parete di granito montata su cardi discorrevoli, e dalla feritoia compare lui, in fuga da quasi 5 anni, in compagnia delle due bambine, una delle quali ha compiuto un anno pochi giorni prima, e la moglie.L'uomo che ha sfidato lo Stato diventando due volte padre negli anni di latitanza. L'uomo che parlava tu per tu con politici e imprenditori, dettando le regole e imponendo tangenti per la costruzione di autostrade, ponti, faraoniche opere pubbliche. L'uomo che ha ucciso il suo vecchio padrino senza esitare un attimo. L'uomo che si faceva chiamare per la sua ferocia come la tigre di Monprachem. E come la tigre di Monprachem aveva lunghi capelli e barba nerissimi. Lo stesso uomo...Anche se con 30 kg in più, ha avuto paura quando dopo 13 ore di ricerche lo hanno scovato del suo covo dorato, tappezzato di libri e quadri che lui stesso dipingeva, prediligendo soggetti come Mussolini, Napoleone e ovviamente se stesso. Il tempo a volte è impietoso. Nell'uomo catturato non c'è niente se non la mole che possa ricordare l'antica somiglianza con Gabir Bedi.Quella che gli valse un soprannome, fatto apposta per costruirci una leggenda. Niente che possa tradire il capo di un impero di 5.000 milioni di euro. 5.000 milioni di euro. 5.000 milioni di euro. A tanto ammonterebbe il giro d'affari della famiglia. Qua a metà c'è il municipio, c'è il bar centrale, non c'è nessuna piazza. C'è solo a un certo punto, proprio al lato del municipio, c'è questa piccolissima piazzetta, una rientranza che non è altro che il sagrato della chiesa principale. Una volta il comune ci fece costruire una specie di monumento ai caduti, che era una specie di obelisco alto con sopra un'aquila, con le ali aperte. Ma che non durò neanche un giorno.Perché la sera stessa, dopo l'inaugurazione, tutti iniziarono a fare il tiro a piccione a quell'aquila, a sparargli su con tutto, fucili, pistole, fucili a pompa, lupare, qualsiasi cosa, tutto il paese sparò, per tutta la notte. E il mattino dopo c'erano rimaste soltanto le zampette dell'aquila. Poi l'obelisco alla fine lo abbatterono, ma perché era proprio brutto, effettivamente, quell'obelisco. Questo è anche per dare una visione di quella che è l'arretratezza del paese, come quando scoppia la febbre della telenovela. Nel periodo di settembre c'è una festa sacra, una festa patronale, sai, di quelle che passa la Madonna in processione in giro per il paese. E all'epoca c'è una telenovela che va per la maggiore, si chiama Anche ricchi piangono. E comunque tutti nel paese seguono questa telenovela, uomini, donne, bambini, fino anche il prete. E per 2 ore, quando la trasmettono, nessuno esce di casa. Il paese è deserto. E quel giorno di settembre della festa patronale, la Madonna, come ogni anno, doveva uscire dalla chiesa alle 7 di sera per fare la processione, il giro del paese con i fedeli dietro che cantano. Però, in coincidenza, proprio a quell'ora c'era questa telenovela. E allora che fare? Che fare? E allora il prete decise di spostare l'ora della processione perché la Madonna può aspettare. E per la prima volta, forse da secoli, la Madonna uscì dalla chiesa alle 10 di sera invece che alle 7. La macchina, nel mio paese, è sempre stata un simbolo che testimonia lo status sociale. E quindi il clan ha sempre dedicato molta attenzione alla macchina come simbolo del potere e della ricchezza che ha accumulato. E nel periodo d'oro il nostro era il paese con la più alta percentuale di Mercedes per abitanti di tutta Europa. Tutte macchine nuovissime, appena uscite. Perché appena un nuovo modello veniva prodotto in Germania, dopo una settimana, circolava già qui. Pagavano qualsiasi cosa per farlo arrivare subito qui, per essere i primi ad averlo. La macchina è pure importante, oltre che come simbolo. È importante perché in un paesino piccolo come il nostro, con una macchina che ti fa la ronda continua, sei in grado di controllare tutto il territorio in meno di 10 minuti. Cioè puoi avere sempre sotto gli occhi tutto quello che succede e intervenire immediatamente quando è necessario. C'è sempre stata questa ronda continua nel paese, come se il territorio fosse recintato, pure se non ci sono i recinti. Però ci sono le ronde. Ci sono i ragazzi che girano in macchina col telefonino e avvertono chi passa e se ci sono posti di blocco della polizia o dei carabinieri. Sono i famosi muschilli, che tradotto sarebbe moscerini, quelli piccoli, fastidiosi. E fanno i muschilli solo perché così si sentono più forti, più potenti. Non lo so, comunque si sentono più forti, più potenti. E lo fanno solo per questo. Sono ragazzi che girano normalmente in Mercedes e spesso rischiano un'incriminazione per una stronzata. Rischiano molto. Quello che puoi ottenere dalla vita puoi cercare di sudartelo, di conquistartelo come puoi. E se sei una persona istruita, se c'è la laurea o comunque c'hai capacità tue, allora hai più possibilità di conquistartelo. Per esempio fai le truffe, truffi le assicurazioni, per esempio. Qui nel paese non c'è nessuna società di assicurazione che ha mai voluto aprire un'agenzia per assicurare auto o moto, perché da noi praticamente c'è il crastolino, come lo chiamano, perché le crastole in dialetto sono i piatti che quando si rompono, quando vanno per terra o li rompi, fanno crastolino, cioè fanno quel rumore di vetri che si rompono. E crastolino vuol dire le denunce false sugli incidenti di macchina. Cioè tu praticamente dichiari che hai avuto uno scontro. Poi vai dal tuo amico carrozziere che ha una portiera tutta ammaccata come quella della tua macchina. Solo che magari la tua è nera, la sua è bianca, ma non importa. Lui la dipinge di nero, toglie la tua, mette quella, si fanno le foto, si spediscono con la denuncia, l'assicurazione paga, arrivano i soldi e alla fine si rifà il cambio della portiera. E c'è una categoria di avvocati che si laureano con il minimo sforzo e una volta laureati si buttano a capofitto su questo tipo di affari, cioè diventano avvocati civilisti, si occupano di infortunistica stradale. Ti fanno le denunce false per l'assicurazione. Questa è una cosa che qui da noi è quasi legale, quasi lecita, perché non comporta né violenza né morte. Né altro. Le ragazze qua non arrivi mai a frequentarle. Non le conosci mai. O le conosci a scuola e non ti cagano proprio. Perché essendo questo un paese di merda, no? La ragazza di qua che va a scuola da Versa, se lì trova ragazzi del suo paese, non vorrà mai averci confidenza. Perché sa che quello poi al paese parlerà in giro di lei e quindi preferisce invece dare confidenza a un ragazzo di Aversa o comunque di un paese vicino. Mentre il ragazzo di qua, se esce fuori dal suo paese, difficilmente riuscirà ad avere confidenza con le ragazze di fuori, perché quelle uno di qua pensano che sia uno stronzo, rozzo, criminale, assassino. E poi qua nel mio paese i ragazzi, non avendo mai contatti con le ragazze per uscirci o anche solo per parlarci, ma stando sempre in gruppetti di ragazzi tra di loro, finiscono pure per diventare tutti dei regrediti, degli abbrutiti. Cioè la sera a volte quando stai sul corso devi starti attento, perché c'è il rischio che quelli più grandi, se ti vedono un po' più tenero, no? Insomma, quando dico tenero intendo un po' più sensibile, più educato, meno animale degli altri. Insomma, se non bestemmi ogni 3 secondi e se non sputi ogni 5, possono pure prenderti per frocio. Eppure se non lo sei, comunque fanno la prova. Nel mio paese si sono fatte e si fanno sempre un sacco di cose, di tutti i generi, di tutti i tipi, però non se ne deve parlare. Le cose non devono assolutamente trapelare, perché l'importante non è che le cose non si facciano, l'importante è che non trapelino, che nessuno venga a saperlo, anche se poi tutti sanno sempre tutto di tutti. E allora tu prova ad immaginarti un paese così. Che cosa può uscirci da un paese così? Non ci può uscire mica Gandhi, oppure Che Guevara. Sandokan. Solo Sandokan non può uscire da un paese così. E allora c'è questo ragazzino che sono io pressato in un pulmino che torna a casa dopo un'altra giornataccia passata da Versa e lui si sente una schifezza perché tutti i suoi compagni hanno i jeans, hanno le scarpe da ginnastica, lui invece no, perché il padre e la madre pensano che vada in un posto migliore e quindi debba vestirsi decentemente. Così lui a 11 anni va a scuola con un pantalone vecchio stile, la camicetta stirata, non dico la cravatta ma quasi il cappotto d'inverno invece di un bel giubbino. Quindi lui si sente un escluso, un emarginato, perché in classe ci stanno solo ragazzi e ragazze di Aversa che parlano italiano correttamente, mentre lui a casa è abituato a parlare in dialetto e quindi trova difficoltà non a parlare italiano ma a conciliare le due parlate. Sente lo stacco quando torna a casa, si sente male perché comunque quel mondo nuovo gli piace, dove tutti parlano italiano, dove tutti rispettano le file, dove i ragazzi e le ragazze si parlano e escono la sera insieme. E ma magari si baciano. Un mondo decente, lui pensa. L'estate, i 2 o 3 mesi estivi aiuto mio padre, lavoro nel frutteto. In questi 2 o 3 mesi estivi, 15-20 giorni li passo a fare il macero, andando col trattore nei centri di raccolta, i cosiddetti maceri, che l'AIMA istituisce nelle zone agricole dove c'è un'eccessiva produzione, per cui i prezzi scendono. Bisogna quindi distruggere una parte dei raccolti perché non scendono. Il macero è un posto maleodorante, solentissimo sotto il sole di luglio-agosto. È un terreno dove viene scavato un fosso enorme, di fianco al quale viene collocata una di quelle banchine su cui si fanno passare i veicoli per pesarli, con un casotto a fianco. Il terreno è recintato. Fuori dal recinto ci sta la fila di trattori con i rimorchi carichi di frutta che aspettano di poter entrare per scaricare la roba che viene pesata e viene data la bolletta col peso, che serve poi per avere i soldi che l'AIMA rimborsa agli agricoltori. La roba viene scaricata nel fosso a cielo aperto finché è pieno, poi lo si copre di terra e se ne scava un altro vicino, fino a che non si raggiunge la quantità massima che ogni macero può raccogliere, perché a ogni macero viene assegnata una quantità massima. L'incarico di aprire questi maceri, questi centri di raccolta, è affidato alle cooperative di agricoltori, perché l'AIMA fornisce solo i soldi, per il resto affida il lavoro alle cooperative di agricoltori. E il controllo viene assicurato dal fatto che in questi centri di raccolta sono presenti in gran quantità poliziotti e finanzieri. Il clan si rende conto che può trarre grandi profitti da questa attività e quindi si inserisce nelle cooperative. Alcune le crea appositamente mettendo insieme 3 o 4 agricoltori che magari hanno pure pochissima terra. Si fa questa cooperativa con un amministratore, un segretario e tutto il resto in regola. E poi queste cooperative fanno la domanda all'AIMA per poter istituire un centro di raccolta in cui potranno andare i soci della cooperativa, ma anche altri agricoltori che verranno fatti risultare soci della cooperativa, oppure che scaricheranno per conto dei soci della cooperativa. E poi i soci andranno a farsi pagare dall'AIMA con le bollette che indicano la quantità di frutta che hanno scaricato e che è stata pesata. Sono bei soldi, sono soldi europei, perché vengono dalla comunità europea e quindi sono soldi sicuri. Per truffare il macero il clan procede così. Con i trattori dei soci delle sue cooperative all'inizio comincia con lo scaricare effettivamente della frutta, solo che al momento di pesare il rimorchio su cui si trova la frutta viene pesato insieme anche il trattore che lo tira e magari anche 10 o 20 persone si mettono sulla banchina, di solito molto grassi. E tutto questo succede tranquillamente sotto gli occhi di tutti, poliziotti e finanzieri. Così avviene all'inizio. Poi in una fase successiva il clan si scoccia di scaricare roba regolare e allora cominciano a mandare al macero rimorchi carichi di rifiuti di tutti i generi, anche legno, ferro, pietre. Basta che sia roba molto pesante, che viene tranquillamente scaricata in questi enormi fossi, come se nulla fosse, sotto gli occhi di tutti, poliziotti e finanzieri. Tu hai 14-15 anni e pensi di fare qualcosa di buono per la tua famiglia. Quindi vai a lavorare con tuo padre. Lavori l'estate in campagna, vedi maturare la frutta, le pesche, le pere, le curi. Fai tutti i lavori, innaffiare, potare. Ti fai un culo. Ma poi si deve buttare via tutto. Si deve portare tutta la frutta al macero perché non si riesce più a venderla. Il prezzo è troppo basso. Oppure le richieste che fanno le aziende che ritirano la frutta per farne conserve sono esagerate, perché pretendono mele o pesche perfette come fossero dipinte. E quindi diventa anche faticoso dover scegliere e buttare gli scarti. Per cui conviene raccogliere tutto insieme e buttare via tutto insieme. Allora a un certo punto tu parti col tuo bel trattore. I centri di raccolta stanno tutti minimo a 20 km dalla tua terra. No, 20 km in macchina sono pochi minuti, ma col trattore che fa massimo 20 km all'ora ci metti 2 ore. Estate, tu vai col trattore e incroci quelli che se ne vanno al mare, tutti allegri, con le ragazze, le magliette colorate, la musica al massimo, e tu stai lì bello tranquillo sul tuo trattore sporco, con la roba dietro che già comincia a fermentare e a puzzare. E poi finalmente arrivi al centro di raccolta. Davanti c'è la fila di trattori con i porchi che aspettano il loro turno, e tu ti posizioni dietro all'ultimo trattore della fila. Di solito arrivi il pomeriggio tardi perché la giornata l'hai passata a lavorare. Lì si comincia a lavorare alle 4 del mattino, si finisce alle 11:30, mezzogiorno, che d'estate nel Frutteto non puoi starci oltre. E quindi comincia la giornata alle 4, cioè arrivi in campagna prima tu e poi il sole. A me è capitato. Quindi quando ho finito di lavorare carichi il raccolto della giornata che va buttato, lo carichi sul trattore e ti cammini verso il centro di raccolta. Già a 10 km di distanza cominci a sentire la sua puzza orribile, però spesso quando arrivi il macero è già chiuso, e quindi arrivi e parcheggi, perché non è che vai là, ti affacci, dai uno sguardo e poi te ne torni a casa. No, tu passi lì la notte sul trattore nella puzza, e il giorno dopo la mattina sei in fila dietro gli altri trattori. Ora mettiamo, il macero apre alle 8:30, tu diciamo che sei il decimo della fila, però non ti spieghi perché quando si aprono i cancelli, invece di entrare il primo, poi il secondo, poi il terzo della fila, vedi che arrivano, non si sa da dove, dei trattori con dei rimorchi enormi. Passano, superano la fila senza guardare in faccia nessuno, sotto gli occhi di tutti, poliziotti e finanzieri, entrano, scaricano e se ne vanno. Le ore passa tutta la giornata, ma fortunatamente i primi due trattori della fila sono riusciti ad entrare, quindi tu pensi che il giorno dopo riuscirai a scaricare. Il giorno dopo arrivano altri 15 trattori che superano la fila senza guardare in faccia a nessuno, sotto gli occhi di tutti, poliziotti, finanzieri, e tu ti chiedi: ma da dove cazzo arriva tutta questa frutta? Poi ne entrano altri due della fila, e quindi tu per scaricare il tuo carico ci puoi mettere anche 3, 4, 5 giorni. Il fatto è che quando arrivi tu a scaricare la tua frutta, un chilo è diventata 300 grammi, perché sotto il sole ha perso tutti i liquidi, è evaporata, è diventata una specie di poltiglia schifosa che quando la scarichi ti fa stare male. Io ogni volta vomito 10 o 15 volte e ho preso l'abitudine di non mangiare mai prima di andare in questi posti. Poi quando finalmente tocca a te scaricare, dopo che hai visto tutta quella gente che si sono fatti i cazzi loro, capita pure che tu involontariamente metti le ruote dietro del trattore sulla banchina per pesare. E allora tutti cominciano a gridare, dicono: ti devi fare più avanti, devi pesare solo il rimorchio, che cazzo vuoi fare, vuoi imbrogliare, vuoi fregare lo Stato. Quindi tu dopo aver aspettato 5 giorni, dopo aver visto tutti quei trattori passarti davanti, dopo averli visti scaricare pietre, legno, ferro, averli visti fare tutti i comodi loro, poi vieni anche insultato, umiliato, e non hai neanche il coraggio di dire: ma che cazzo state dicendo? Così arrivi là, scarichi la tua schifezza e te ne ritorni al Frutteto, dove nel frattempo molta roba è caduta per terra e quindi devi di nuovo ammassarla, caricarla e tornare al macero. I soldi se li sono fatti, ma proprio tanti, quella volta di Chernobyl, quando scoppiò la centrale nucleare di Chernobyl. Era all'inizio dell'anno, in quel periodo ci sono delle coltivazioni che sono abbastanza redditizie, gli asparagi, le fragole, che hanno dei prezzi abbastanza alti. E il clan capì che quello era proprio il momento per farsi molti soldi, perché in Italia tutti quei prodotti venivano buttati tutti quanti al macero, perché erano risultati radioattivi. In Francia invece non hanno fatto così. E qui da noi il clan quell'anno fece risultare buttati al macero tanti di quei quintali di fragole, asparagi e altri ortaggi, che poi successivamente, quando l'AIMA si rese conto che c'era qualcosa di non troppo chiaro, fece fare un'indagine e si rese conto che per coltivare tutta quella roba buttata al macero ci sarebbero volute 3 volte l'intera Campania. Cioè, tu figurati un po' quanti miliardi e miliardi e miliardi si sono fatti così. Nel frattempo anche i giornali e le televisioni iniziano a interessarsi alle strane cose che succedono in queste zone. Arrivano qui delle truppe televisive che però trovano il buio completo. Cioè, una volta arrivati nel paese, con chiunque parlino, a chiunque chiedono una qualsiasi cosa sul clan o anche solo sulle condizioni di vita del paese, ricevono tutti la stessa risposta, cioè: qui i clan proprio non esistono. Siamo un normale paese del sud con i suoi problemi, che cerca di uscire dall'antica miseria. E questo lo dicono sia il ragazzo del bar, l'impiegato comunale e naturalmente il sindaco, che del clan è uno dei capi. I primi a capire già prima del crollo del muro di Berlino che l'economia nei paesi dell'est stava barcollando e che in quei paesi potevano esserci buone occasioni di guadagno sono proprio gli italiani e in particolare i clan di queste parti. Negli elenchi delle imprese che si sono installate nei paesi dell'est appaiono numerose società che si chiamano Alba Nova. Ma Alba Nova è il nome che Mussolini diede a un comune che riuniva il mio paese e 2 paesi limitrofi in un unico comune, che però dopo la guerra fu di nuovo diviso in 3 paesi diversi. E infatti c'è ancora la stazione del mio paese che si chiama Alba Nova. E Alba Nova è anche il nome che è stato dato alla squadra di calcio creata dal clan, che nel periodo di massima espansione giocava in Serie C, con mire ambiziose di arrivare in Serie B, e in vista di questo viene costruito in 4-4-8 un nuovo stadio. Insomma, Alba Nova è il nome che il clan usa per la sua squadra di calcio e per le sue attività imprenditoriali nei paesi dell'est. Forse perché pensa che sia un nome che porti fortuna. Boh. Le elezioni comunali nel mio paese sono vinte da una lista di centrosinistra. Diventa quindi sindaco un suo esponente. Non potendo ucciderlo perché ormai la zona è sotto stretto controllo. C'è un osservatorio permanente sulla criminalità? Ci si limita a scaricare davanti al portone del nuovo sindaco una bella montagna di merda di bufala. Ma in poco tempo 3 consiglieri comunali della maggioranza, di cui 2 assessori, vengono corrotti e nella votazione per approvare il bilancio votano contro, facendo così cadere la giunta e indire nuove elezioni. Ma le nuove elezioni comunali nel mio paese non verranno mai fatte, perché si decide che il comune, essendo sotto l'influenza manifesta del clan, non può essere gestito da un consiglio comunale normalmente eletto, per cui si affida l'incarico di governarlo a un commissario prefettizio. La stessa storia si ripete in un altro comune vicino, pure controllato dai clan. C'è lo scioglimento del consiglio comunale, arrivano i commissari prefettizi che preparano nuove elezioni che hanno luogo. Ma dopo 2 o 3 mesi il sindaco, che sta su una sedia a rotelle perché gli hanno sparato alla schiena paralizzandogli le gambe, decide di sciogliere il consiglio comunale per dissidi all'interno della maggioranza. E così sono più di 7 anni che non c'è un consiglio comunale e non si riesce a formare una sola lista che abbia il coraggio di presentarsi alle elezioni. In quegli anni, oltre a quello del mio paese, vengono sciolti dal prefetto perché infiltrati dai clan 12 altri consigli comunali della provincia. Casal di Principe, Casa Pesenna, Mondragone, Recale, Cesa, Grazzanise, Villa di Briano, Santa Maria la Fossa, Lusciano, Carinaro, Frignano, Teverola. Si preferisce questa situazione anche perché il commissario prefettizio permette di evitare alcuni problemi amministrativi. C'è per esempio l'obbligo dei consigli comunali di emanare un piano regolatore dell'edilizia. Ma ci si rende conto che questo comporterebbe l'abbattimento, comunque la messa fuori legge, di un gran numero di case costruite abusivamente, perché il clan ha costruito case ovunque. Per esempio c'era un sindaco che aveva costruito un gran numero di case alla periferia del paese, nella cosiddetta zona infetta, e aveva trasferito lì anche gli uffici del comune, in un edificio di sua proprietà. E quindi il comune pagava l'affitto al sindaco. Anche la sede dei carabinieri del mio paese è in un edificio di proprietà del clan locale. Ma... Dopo 4 anni termina l'implacabile e feroce guerra di successione che ha fatto tante vittime. La Tigre di Monfracem, oramai senza rivali, è al comando dell'organizzazione e il mio paese è diventato adesso il centro dell'organizzazione, perché la Tigre di Monfracem è del mio paese e da lì controlla tutto il territorio che va dal Basso Lazio, comprende tutto il Casertano, arriva fino alle propaggini del Sannio e alle pendici dell'Irpinia. Controlla una quantità enorme di imprese, dagli appalti per l'alta velocità alla terza corsia della Napoli-Roma, ai faraonici lavori per la bonifica dei Regi Lagni, un'opera finanziata con 600 miliardi e mai realizzata, fino alle cooperative che raccolgono e distruggono le eccedenze agricole e consentono di mettere in piedi la colossale truffa dell'AIMA. Tutto ciò che passa per il suo territorio è affare della Tigre di Monfracem e sono tangenti miliardarie versate al clan. Anche se il suo impero economico non ha più le dimensioni internazionali dell'epoca d'oro, rappresenta sempre una delle maggiori concentrazioni criminali operanti. Il 12 luglio. Da un po' di tempo ho lasciato il mio paese e sono salito al nord, dove ho trovato un lavoro per i fatti miei, tranquillo. È mattina e mi mandano a chiamare perché c'è una telefonata di una ragazza per me. Mi prendono pure in giro, perché dicono che non devo farmi chiamare dalla mia ragazza sul lavoro. Ma dall'altro capo del telefono c'è mia sorella Caterina, che piangendo mi dice che è stato ucciso Peppinotto. Nel nostro paese quasi tutti i diminutivi vengono fatti in otto. Peppinotto, Cicciotto, Raffaellotto e cose del genere. Peppinotto è il cugino carnale del marito di mia sorella Tiziana. Sono entrati nell'officina di Peppinotto e l'hanno ammazzato. A lui e il meccanico che lavorava con lui. E anche a un cliente, un contadino, che era passato di là per farsi riparare il trattore. Il venerdì mattina mi arriva la telefonata, chiedo il permesso al lavoro, faccio in fretta la valigia e parto per casa. Il venerdì sera sono a Napoli, alla stazione, mi vengono a prendere. Arrivo a casa e mi raccontano quello che è successo. La domenica mattina vado a casa di mia sorella Tiziana. Era anche la casa di Peppinotto, che si era costruito l'officina proprio di fronte, sulla strada provinciale che porta dal paese a Villa Literna. E là ci sono tutti i miei parenti. Poi il marito di mia sorella, Antonio, mi chiede di accompagnarlo all'obitorio, a Caserta, dove hanno fatto l'autopsia a Peppinotto. A Caserta io e mio cognato andiamo all'obitorio, facciamo tutte le carte e poi entriamo. Non so se siete mai stati in un obitorio. La puzza che si sente è quella di una macelleria, del reparto di congelazione di una macelleria, quella puzza di sangue freddo congelato che ti entra dappertutto, ti resta pure addosso per un po' di tempo attaccata ai vestiti e non va più via. Me ne sono accorto poi dopo, quando sono andato via dall'obitorio, mi sentivo sempre addosso quel freddo, quella puzza, una puzza che ti dà la nausea insieme a una sensazione di freddo, di sangue congelato che sembra ti entri dappertutto, sembra che ti entri sotto la pelle, sembra che ti entri nelle ossa. Noi entriamo nell'obitorio. Ci fanno entrare in uno stanzone seminterrato, completamente vuoto, senza neanche una finestra, coi muri grigi, illuminato da lunghi tubi al neon. Noi cominciamo a sentire questo odore e stiamo un po' lì a aspettare che ci facciano vedere Peppinotto, io e questo mio cognato. Dopo mezz'ora si sente un cigolio che si avvicina. Da un corridoio che dà sulle celle frigorifere, un inserviente ce lo porta su una specie di carrello cigolante. Peppinotto è completamente nudo, completamente rasato, capelli, barba, peli, tutto. La pelle è singolarmente pallida, color bianco avorio su sfondo grigiastro. E là dove è stato colpito è ricucito. La faccia è quasi irriconoscibile perché ha preso parecchie pallottole in faccia. E ha queste cuciture un po' dappertutto perché l'hanno colpito allo stomaco, alle gambe, dappertutto. Io non ce la faccio a tenere gli occhi sul cadavere perché mi fa stare male. Devo girare la faccia dall'altra parte e il resto lì immobile. Ma poi cerco di muovermi verso Antonio per aiutarlo, per fare qualcosa. Ma lui fortunatamente mi dice: non c'è bisogno, non ti muovere, non guardare, perché se vieni qua ti senti male, vomiti sicuramente. Ma il fatto di non poterlo aiutare mi fa stare ancora più male. Allora Antonio, che si accorge forse di come sto, mi dice: è meglio che vai fuori, mi aspetti fuori dalla porta dell'obitorio, io esco. Dopo un po' mi sento già meglio. Poi, una volta usciti di là, mio cognato Antonio, che l'ha vestito, l'ha sistemato per bene, tutto il resto, appena usciti dall'obitorio, la prima cosa che fa è infilarsi in un bar a prendere un caffè e due cornetti, come se nulla fosse stato, con una tranquillità, con un'abitudine alla morte, che mi chiedo da dove cazzo gli veniva. Il fatto di avere un morto in famiglia per motivi di questo genere, direttamente oppure indirettamente per rapporti di parentela, è una cosa che, se fai il giro del mio paese, è toccata in misura maggiore o minore a tutte le famiglie. Nel paese, se ti guardi attorno, vedi sempre, dappertutto, donne vestite di nero. Le donne vestite di nero nel mio paese sono una cosa immutabile. Io, per esempio, negli ultimi anni non ho mai visto mia madre con un colore addosso che non fosse il nero, perché prima c'è stata la scomparsa dello zio Francesco, che è stato coinvolto incidentalmente in una sparatoria dei clan, e quindi mia madre si veste di nero. Dopo un po' le muore la madre per cause naturali, quindi continua col nero, e adesso ammazzano il cugino del marito di sua figlia, e quindi ancora nero. E quando poi finalmente mia madre si sarà tolta quel nero di dosso, io non la riconoscerò più, perché ormai mi sono abituata a quella sua figura tutta nera. Comunque quel giorno sono ripartito subito, la sera stessa, per il nord. Ho buttato via i vestiti che ancora puzzavano di quella puzza orribile di sangue freddo congelato. Mi sono fatto portare alla stazione e mi sono detto, con rabbia, che non tornerò mai più al mio paese. Thank you.